Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Dopo la morte immatura del padre, Andrea si trovò solo a 21 anni, signore di una fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e dei suoi gusti. Rimase 15 mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze con un amante antico ed egli venne a Roma per predilezione. Roma era il suo grande amore. Non la Roma dei Cesari, ma la Roma dei Papi. Non la Roma degli archi, delle terme, dei fori, ma la Roma delle ville, delle fontane, delle chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, l'Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe, la magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini, la treva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo, ristoriato dai Carracci, come quello Farnese, una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese, una villa come quella di Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d'Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a qualche suo superbo amore. In casa della Marchesa d'Ateleta, sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda che vorreste voi essere, egli aveva scritto «Principe romano». Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel Palazzo Zuccari, alla Trinità dei Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico, dove l'ombra dell'obelisco di Pio VI segna la fuga delle ore. Passò tutto il mese di ottobre fra le cure degli addobbi. Poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni di indicibile tristezza. Era un'estate di San Martino, una primavera dei morti grave e soave, in cui Roma adagiavasi tutta quanta d'oro, come una città dell'estremo oriente, sotto un ciel quasi latteo, diafano, come i cieli che si specchiano nei mari australi. Quel languore dell'aria e della luce, ove tutte le cose parevano quasi perdere la loro realità e divenire immateriali, mettevano nel giovane una prostrazione infinita, un senso inesprimibile di scontento, di sconforto, di solitudine, di vacuità, di nostalgia. Certo, egli ora entrava in un novello stadio. Avrebbe alfin trovato la donna e l'opera, capaci di impadronirsi del suo cuore e di diventare il suo scopo. Non aveva dentro di sé la sicurezza della forza, né il presentimento della gloria o della felicità. Tutto penetrato e imbevuto di arte, non aveva ancora prodotto nessuna opera notevole. Avido d'amore e di piacere, non aveva ancora interamente amato, né aveva mai goduto ingenuamente. Torturato da un ideale, non ne portava ancora ben distinta in cima dei pensieri l'immagine. Aborrendo dal dolore per natura e per educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni parte. Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie, egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. Incontrando la duchessa di Scerni, donna Elena Muti, Andrea pensò: «Ecco la mia donna!» Tutto il suo essere ebbe una sollevazione di gioia nel presentimento del possesso. Fu il primo incontro in casa della Marchesa d'Ateleta. Questa cugina di Andrea, nel palazzo Roccagiovine, aveva saloni molto frequentati e la attraeva specialmente per la sua arguta giocondità, per la libertà dei suoi moti, per il suo infaticabile sorriso. Il mercoledì d'ogni settimana Andrea Sperelli aveva un posto alla mensa della duchessa. Un martedì sera, in un palco del Teatro Valle, la Marchesa gli aveva detto ridendo: «Bada di non mancare, Andrea, domani. Abbiamo tra gli invitati una persona interessante, anzi fatale. Premonisciti però contro la malia. Tu sei in un momento di debolezza». Egli le aveva risposto ridendo: «Verrò inerme se non ti dispiace, cugina, anzi, in abito di vittima. È un abito di richiamo che porto da molte sere, inutilmente, ahimè». «Il sacrificio è prossimo, cugino mio». «La vittima è pronta». La sera seguente egli venne al palazzo Roccagiovine alcuni minuti prima dell'ora consueta, avendo una mirabile gardenia all'occhiello e una inquietudine vaga in fondo all'anima. Il suo coupé si fermò innanzi alla porta, perché l'androne era già occupato da un'altra carrozza. Le livree, i cavalli, tutta la cerimonia che accompagnava la discesa della signora avevano l'impronta della grande casata. Il conte intravide una figura alta e svelta, un'acconciatura tempestata di diamanti, un piccolo piede che si posò sul gradino. Poi, come anch'egli saliva la scala, vide la dama alle spalle. Ella saliva dinanzi a lui, lentamente, mollemente, con una specie di misura. Il mantello, foderato di una pelliccia nivea come la piuma dei cigni, non più retto dal fermaglio, le si abbandonava intorno al busto, lasciando scoperte le spalle. Le spalle emergevano pallide come l'avorio pulito, divise da un solco morbido, con le scapule che nel perdersi dentro i merletti del busto avevano, non so, qual curva fuggevole, quale dolce inclinazione di ali. E su dalle spalle svolgevasi agile e tondo il collo, e dalla nuca i capelli, come ravvolti in una spira, piegavano al sommo della testa e vi formavano un nodo sotto il morso delle forcine gemmate. Il mantello, la dama gittò uno sguardo rapidissimo al giovane che entrava. Questi udì annunziare: «Sua Eccellenza la Duchessa di Scerni». Subito dopo: «Il signor Conte Sperelli Fieschi d'Ugenta». Egli piacque che il suo nome fosse pronunziato accanto al nome di quella donna. Nel salone erano già il Marchese e la Marchesa d'Ateleta, il Barone e la Baronessa d'Isola, Don Filippo del Monte. Il fuoco ardeva nel caminetto. Alcuni divani erano disposti nel raggio del calore. Quattro muse dalle larghe foglie venate di sanguigno si protendevano sulle spalliere basse. La Marchesa, facendosi incontro ai due sopraggiunti, disse con quel suo bel riso inestinguibile: «Per l'amabilità del caso non c'è più bisogno di presentazioni fra voi due. Cugino Sperelli, inchinatevi alla divina Elena». Andrea si inchinò profondamente. La duchessa gli offrì la mano con un gesto di grazia, guardandolo negli occhi. «Son molto lieta di vedervi, conte. Mi parlò tanto di voi a Lucerna l'estate scorsa un vostro amico, Giulio Musellaro. Ero, confesso, un po' curiosa. Musellaro anche mi diede a leggere la rarissima vostra favola di Ermafrodito. Voi avete in me un'ammiratrice cordiale, ricordatevi». Ella parlava con qualche pausa. Aveva la voce così insinuante che quasi dava la sensazione di una carezza carnale. E aveva quello sguardo involontariamente amoroso e voluttuoso che turba tutti gli uomini e ne accende d'improvviso la brama. Thank you. Io vi ho certo veduta un'altra volta. Non so più dove, non so più quando, ma vi ho certo veduta, diceva Andrea Sperelli alla duchessa, ritto in piedi dinanzi a lei. Su per le scale, mentre vi guardavo salire, nel fondo della mia memoria si risvegliava un ricordo indistinto, qualche cosa che prendeva forma seguendo il ritmo di quel vostro salire, come un'immagine nascente da un'aria di musica. Non son giunto ad aver limpido il ricordo, ma quando vi siete voltata, ho sentito che il vostro profilo aveva una non dubbia rispondenza con quella immagine. Io vi ho certo veduta, un'altra volta, chissà, forse in un sogno, forse in una creazione d'arte, in un'esistenza anteriore. Pronunziando queste ultime frasi troppo sentimentali e chimeriche, egli rise apertamente, come per prevenire un sorriso o incredulo o ironico della dama. Elena invece rimase grave. Ascoltava ella o pensava ad altro? Accettava ella quella specie di discorsi o voleva con quella serietà prendersi gioco di lui? Intendeva ella di secondare l'opera di seduzione iniziata da lui così sollecitamente o si chiudeva nella indifferenza e nel silenzio incurante? Era ella, insomma, una donna per lui espugnabile o no? Andrea, perplesso, interrogava il mistero. Un servo aprì la grande porta che dava nella sala da pranzo. La marchesa mise il suo braccio sotto quello di Don Filippo del Monte e diede l'esempio. Gli altri seguirono. «Andiamo», disse Elena. Parve ad Andrea che ella gli si appoggiasse con un po' di abbandono. Non era un'illusione del suo desiderio. Forse. Egli pendeva nel dubbio. Ma ad ogni attimo che passava si sentiva più addentro conquistare dalla malia dolcissima. Ad ogni attimo gli cresceva l'ansietà di penetrare l'animo della donna. «Cugino qui», disse donna Francesca segnandogli il posto. Sulla mensa le porcellane, le argenterie, i cristalli, i fiori scintillavano. La marchesa appunto in quell'inverno aveva introdotto la moda delle catene di fiori sospese dall'un capo all'altro fra i grandi candelabri ed anche la moda dell'esilissimo vaso di Murano latteo e cangiante come l'opale con entro una solida orchidea messo tra i vari bicchieri innanzi a ciascun convitato. «Fior diabolico», disse donna Elena Muti prendendo il vaso di vetro e osservando da vicino l'orchidea sanguigna e difforme. Ella aveva la voce così ricca di suono che anche le parole più volgari e le frasi più comuni parevano prendere sulla sua bocca non so qual significato occulto, non so qual misterioso accento e qual grazia nuova. «Fiore simbolico tra le vostre dita», mormorò Andrea guardando la dama, che in quell'attitudine era sovrammirabile. «Ma io preferisco le rose», disse Elena posando l'orchidea, con un atto di repulsione che faceva contrasto al suo precedente moto di curiosità. Poi si gettò nella conversazione generale. Donna Francesca parlava dell'ultimo ricevimento all'ambasciata d'Austria. «Vedesti Madame de Caen?» le chiese Elena. «Aveva un abito di tulle giallo tempestato di non so quanti colibrì con gli occhi di rubino. Una magnifica uccelliera danzante». Ed ella, dopo le piccole maldicenze, rideva di un riso cordiale che le dava un tremolio alla parte inferiore del mento e alle narici. Dinanzi a quella volubilità incomprensibile, Andrea rimaneva ancor titubante. Quelle cose frivole e maligne uscivano dalle stesse labbra che allora, pronunziando una frase semplicissima, l'avevan turbato fin nel profondo. Qual era dunque la vera essenza di quella creatura? Aveva ella percezione e coscienza della sua metamorfosi costante, o era ella impenetrabile anche a se stessa, rimanendo fuori del proprio mistero? Quanto nelle sue espressioni e manifestazioni entrava d'artificio e quanto di spontaneità? Egli vide Elena nell'atto di bagnare le labbra in un vino biondo, come un miele liquido. Scelse fra i bicchieri quello ove il servo aveva versato un egual vino e bevve con Elena. Ambedue nel tempo medesimo posarono sulla tovaglia il cristallo. La comunità dell'atto fece volgere l'una verso l'altro e lo sguardo li accese, ambedue, più assai del sorso. Elena, tenendo il capo sollevato, anzi piegato indietro un poco, guardava il giovine furtivamente, di fra le palpebre socchiuse, con uno di quegli indescrivibili sguardi della donna che paiono assorbire, quasi direi bevere, dall'uomo preferito tutto ciò che in lui è più amabile, più desiderabile, più godibile, tutto ciò che in lei ha destata quella istintiva esaltazione sessuale da cui ha principio la passione. I lunghissimi cigli velavano l'iride inclinata all'angolo dell'orbita e il bianco nuotava come in una luce liquida, un po' azzurra, e un tremolio quasi impercettibile muoveva la palpebra inferiore. Pareva che il raggio dello sguardo andasse alla bocca di Andrea, come alla cosa più dolce. Elena era presa, infatti, da quella bocca, pura di forma, accesa di colore, gonfia di sensualità, con un'espressione un po' crudele quando rimaneva serrata. Quella bocca giovenile ricordava, per una singolar somiglianza, il ritratto del gentiluomo incognito che è nella Galleria Borghese. Quando le labbra si aprivano al riso, quell'espressione fuggiva, e i denti bianchi, quadri, eguali, di una straordinaria lucentezza, illuminavano una bocca tutta fresca e gioconda, come quella di un fanciullo. Appena Andrea si volse, Elena ritrasse lo sguardo, ma non così presto che il giovine non ne cogliesse il baleno. N'ebbe egli una gioia così forte che sentì salirsi alle gote una fiamma. Ella mi vuole, pensò esultando nella certezza d'aver già conquistata la rarissima creatura. Ed anche pensò, è un piacere non mai provato. Elena domandò, resterete a Roma tutto l'inverno? Tutto l'inverno e oltre, rispose Andrea, a cui quella semplice domanda pareva chiudere una promessa d'amore. Avete dunque una casa? Casa Zuccari, Domus Aurea, alla Trinità dei Monti. Voi felice. Perché felice? Perché voi abitate in un luogo che io prediligo. Ver raccolta, è vero, come un'essenza in un vaso, tutta la sovrana dolcezza di Roma. È vero, tra l'obelisco della Trinità e la colonna della Concezione è sospeso ex voto il mio cuore cattolico e pagano. Ella rise di quella frase. Egli aveva pronto un madrigale intorno al cuor sospeso, ma non lo proferì, perché gli spiaceva di prolungare il dialogo su quel tono falso e leggero e di disperdere così l'intimo suo godimento. Tacque. Ella rimase un poco pensosa. Poi di nuovo si gittò nella conversazione generale con una vivacità anche maggiore, profondendo i motti e le risa, facendo scintillare i suoi denti e le sue parole. Donna Francesca mordeva un poco la principessa di Ferentino, non senza finezza, accennando all'avventura lesbica di lei con Giovannella Dadidi. A proposito, la Ferentino annunzia per l'Epifania un'altra fiera di beneficenza, disse il barone d'Isola. Non ne sapete ancora nulla? Io sono patronessa, rispose Elena Muti. Voi siete una patronessa preziosa, fece Don Filippo del Monte. Nella fiera di maggio riceveste una nuvola d'oro. Ah, la fiera di maggio, una follia, esclamò la marchesa da Teleta. Ti ricordi, Elena, i nostri banchi erano vicini. 5 luigi per sorso, 5 luigi per un morso, si mise a gridare Don Filippo del Monte, imitando, per gioco, la voce di un banditore. La Muti e la Teleta ridevano. Già, già, è vero, voi gettavate il bando, Filippo, disse Donna Francesca. Peccato che tu non ci fossi, cugino mio. Per 5 luigi avresti mangiato un frutto segnato prima dai miei denti, e per altri 5 luigi avresti bevuto champagne nel concavo delle mani di Elena. Che scandalo, interruppe la baronessa d'Isola con una smorfietta d'orrore. tu non vendevi le sigarette accese prima da te, molto inumidite per un Luigi?» fece donna Francesca sempre ridendo. E don Filippo: «Io vidi qualcosa di meglio. Leonetto Lanza ottenne dalla contessa di Lucoli, per non so quanto, un sigaro d'Avana che l'aveva tenuto sotto l'ascella.» «Ogni opera di carità è santa», sentenziò la marchesa. «Io, a furia di morsi nelle frutta, misi insieme circa 200 Luigi. E voi?» chiese Andrea Sperelli alla Muti, sorridendo a malapena. «E voi, con la vostra coppa carnale?» «Io 270. Così motteggiavano tutti, tranne il marchese. Questo ateleta era un uomo già vecchio, afflitto da una sordità incurabile, bene incerettato, dipinto di un color biondastro, artefatto da capo a piedi. Pareva uno di quei personaggi finti che si vedono nei gabinetti di figure in cera. Ogni tanto, quasi sempre male a proposito, metteva fuori una specie di risolino secco, che pareva lo stridore di una macchinetta arrugginita che gli avesse dentro il corpo. Ma a un certo punto il prezzo del sorso arrivò a 10 Luigi, capite?» soggiunse Elena. «E all'ultimo quel matto di Galeazzo Secinaro venne ad offrirmi un biglietto da 500 lire, chiedendo in cambio che io mi asciugassi le mani alla sua barba bionda.» «Accettaste?» chiese Andrea Sperelli alla duchessa. «Sacrificai le mie mani alla beneficenza.» Ella rispose: 25 Luigi di più.»